Capitolo 122. La pazzia di Eracle. La vittoria sui Minii fece di Eracle l'eroe più famoso di tutta la Grecia e come ricompensa Re Creonte gli diede in sposa sua figlia Megara o Megera e lo nominò protettore della città, mentre Ificle sposò la figlia più giovane. Alcuni dicono che Eracle ebbe due figli da Megara, altri che ne ebbe tre, quattro e persino otto. Essi sono chiamati gli Alcaidi. Eracle in seguito sconfisse Pirecmo, re degli Eubei, che aveva marciato su Tebe a fianco dei Minii, e sparse il terrore in Grecia, ordinando che il suo corpo fosse legato a due cavalli che galoppavano in opposte direzioni e così dilaniato fosse poi esposto senza sepoltura sulle rive del fiume Eracleo, in un punto detto dei Puledri di Pirecmo, dove ancora si sente l'eco di un nitrito quando vi si portano i cavalli alla beverata. Era, seccata dai successi di Eracle, lo fece impazzire. Dapprima egli assalì il suo carissimo nipote Iolao, il figlio maggiore di Ificle, che riuscì a sfuggire ai suoi attacchi. Poi, scambiando sei dei propri figli per dei nemici, li passò a fil di spada e ne gettò i corpi su un rogo, con i cadaveri di altri due figli di Ificle. Tutti assieme i ragazzi stavano facendo esercizi militari. I tebani celebrano ogni anno una festa in onore di queste otto vittime. Il primo giorno si offrono sacrifici e i fuochi ardono per tutta la notte. Il secondo si svolgono i giochi funebri e il vincitore è incoronato con bianco mirto. I celebranti piangono a ricordo del brillante destino che attendeva i figli di Eracle. Uno di essi avrebbe governato su Argo, occupando il trono di Euristeo, ed Eracle avrebbe gettato la pelle del leone sopra le sue spalle. Un altro sarebbe divenuto re di Tebe, e nella sua destra Eracle avrebbe posto la mazza della difesa, equivoco dono di Dedalo. A un terzo era stata promessa Ecalia, che in seguito Eracle rase al suolo. Le spose più degne erano state scelte per ciascuno di loro e garantivano alleanze con Atene, Tebe e Sparta. Così grande affetto Eracle nutriva per questi suoi figli che taluni ora negano che egli li abbia uccisi e preferiscono supporre che i giovani fossero assassinati a tradimento da qualcuno degli ospiti di Eracle, da Lico forse o, come pensa Socrate, da Augia. Quando Eracle recuperò la ragione, si chiuse in una camera buia per alcuni giorni, evitando il contatto con i suoi simili. Poi, purificato da re Tespio, si recò a Delfi per chiedere che cosa dovesse fare. La Pizia si rivolse a lui chiamandolo per la prima volta Eracle e non Palemone, e gli consigliò di fissare la sua residenza a Tirinto, di servire Euristeo per 12 anni e di compiere tutte le fatiche che Euristeo stesso ritenesse opportuno di imporgli. Come compenso gli sarebbe stata concessa l'immortalità. A tale annuncio Eracle cadde in una cupa disperazione, poiché gli ripugnava di servire un uomo che sapeva essergli di molto inferiore. Tuttavia non osava opporsi al volere di Zeus. Molti amici lo confortarono in quella circostanza, e infine, quando il passar del tempo ebbe in qualche modo alleviato il suo dolore, egli si mise a disposizione di Euristeo. Altri tuttavia ritengono che soltanto al suo ritorno dal Tartaro Eracle impazzì e uccise i suoi figli. Secondo costoro egli uccise anche Megara e la pitonessa gli disse: «Tu non sarai più chiamato Palemone, Apollo ti dà il nome di Eracle, poiché Era ti concede fama e imperitura tra i mortali». Come se egli avesse reso alla dea un grande servigio. Altri ancora dicono che Eracle fu l'amante di Euristeo e che compì le 12 fatiche per fargli piacere, e altri infine che egli accettò di addossarsi tali fatiche purché Euristeo annullasse la sentenza di esilio pronunciata contro Anfitrione. Fu detto che quando Eracle iniziò le sue fatiche, Ermete gli donò una spada, Apollo un arco con frecce ben levigate e adorne di piume d'aquila, Efesto una corazza d'oro e Atena un mantello, oppure che Atena gli donò la corazza ed Efesto bronze e schinieri e un elmo adamantino. Atena ed Efesto, a quanto pare, gareggiarono nel beneficare Eracle. L'una gli concesse di apprezzare le gioie domestiche, l'altro gli assicurò protezione nei pericoli della guerra. Una coppia di cavalli fu il dono di Posidone, quello di Zeus, un magnifico e infrangibile scudo. Molte leggende nacquero attorno a questo scudo che era di smalto, avorio, elettro, oro e lapislazzuli. Inoltre, le teste di 12 serpenti incise tutt'attorno alla fascia dello scudo facevano scattare le fauci ogni qualvolta Eracle iniziava una battaglia, terrificando i suoi avversari. Eracle, in verità, disprezzava le armature e dopo la sua prima fatica non portava con sé nemmeno la lancia, si affidava alla clava, all'arco e alle frecce. Raramente si servì della clava dalla bronzea punta che gli aveva donato Efesto, preferendole quelle che egli stesso aveva ricavate da un tronco di oleastro, la prima sull'Elicona, nei pressi di Nemea, la seconda sulle spiagge del mare Saronico. Quest'ultima fu la clava che, nel corso della sua visita a Trezene, egli lasciò ai piedi del simulacro di Ermete. Il legno a Tecchì germogliò ed è ora un albero maestoso. Iolao, nipote di Eracle, partecipò alle sue fatiche come auriga o come reggitore di scudo. La pazzia fu la scusa a cui la Grecia dei tempi classici ricorse per giustificare i sacrifici infantili. In verità, i fanciulli sostituti del re sacro venivano arsi vivi mentre il re giaceva nascosto in una tomba per 24 ore, simulando la morte per poi riapparire e salire nuovamente al trono. Il supplizio di Pirecmo, squartato da cavalli selvaggi, era molto comune. L'appellativo di Eracle, Palemone, lo identifica con Melicerte di Corinto, che fu divinizzato sotto lo stesso nome. Melicerte è Melkart, il signore della città, l'Eracle di Tiro. Gli otto alcaidi erano forse membri di un gruppo di danzatori di spade che, come gli otto Morris Dancer della rappresentazione natalizia inglese, concludevano la loro esibizione con la resurrezione della vittima. Il mirto era l'albero del tredicesimo giorno del mese lunare e simboleggiava la partenza. L'olivo selvatico, l'albero del primo mese, simboleggiava l'inizio. Gli otto figli di Elettrione formavano probabilmente a Micene un altro gruppo di danzatori. I rapporti omosessuali di Eracle con Ila, Iolao ed Euristeo e le descrizioni delle sue meravigliose armi valgono a giustificare le abitudini militari tebane. Nel mito originale, Eracle deve aver amato la figlia di Euristeo e non Euristeo stesso. Servio ci fa notare che le 12 fatiche potrebbero coincidere con i 12 segni dello zodiaco, benché Omero ed Esiodo non dicano che tali fatiche fossero davvero 12, né che il loro succedersi corrispose a quello delle costellazioni. Come il celtico dio dell'anno, celebrato nella irlandese canzone di Amergin, l'Eracle pelasgico pare abbia compiuto i suoi progressi nel corso di un anno di 13 mesi. Nei miti irlandese e celtico, gli emblemi successivi sono cervo o toro, acqua, vento, rugiada, falco, fiore, falò, lancia, salmone, collina, cinghiale, maroso, serpente di mare. Ma le avventure di Gilgamesh nel poema epico babilonese di Gilgamesh sono in rapporto con i segni dello zodiaco e l'Eracle di Tiro ha molti lati in comune con l'eroe di Babilonia. Checché ne dicano Omero ed Esiodo, le scene dipinte sugli antichi scudi pare non fossero prodigiose opere d'arte, ma rozzi pittogrammi indicanti l'origine e il rango del proprietario, incisi sulla fascia spirale che ricopriva ogni scudo. I 12 dei dell'Olimpo offrirono doni a Eracle in occasione delle sue sacre nozze e tali doni gli furono probabilmente consegnati dalla principessa sposa Atena, Auge, Iole o quale altro fosse il suo nome, sia direttamente sia per le mani delle sue ancelle. Così Eracle fu armato per le sue fatiche, vale a dire per i suoi combattimenti rituali e le sue magiche imprese.